Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. E ben ritrovati amici, un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24. Settimana con numerose uscite, ne abbiamo scelti 4 di film nuovi da proporvi, anzi 5 per la precisione, però manca forse un po' il film forte, il film che possa trascinare un box office che dopo le due fiammate consecutive, diciamo, di Tenet da una parte e di After 2 dall'altra, si è un po' risseduto, vuoi magari i dati che arrivavano dal fronte della cronaca, della pandemia, vuoi anche che magari dopo Venezia sono mancati alcuni blockbuster, come vengono chiamati, film capaci di fare cassetta, eppure il cinema rimane uno dei luoghi più sicuri, con tutti i protocolli applicati. Però ecco, l'invito sin da subito è: andate al cinema, perché comunque anche nella proposta di questa settimana ci sono film molto interessanti. Ne parleremo fra poco, sarà con noi Susanna Licchiarelli, regista di Miss Marx, uno dei film più belli e riusciti di questa settimana. È nelle sale una bella dramedy francese con Fabrice Luchini e Patrick Bruel, ovvero Il meglio deve ancora venire. Parleremo anche di festival, sarà con noi Giovanna Taviani per raccontarci il Salina Doc Fest, che si sdoppia questo weekend a Roma e il prossimo weekend nella splendida Isola delle Eolie. Ma a proposito di festival, vi voglio segnalare che siamo a Salso Maggiore, dove abbiamo mandato una coppia di nostri ascoltatori la scorsa settimana con il nostro consueto gioco, che permette di arrivare a Mangia Cinema per fare un weekend nel festival ideato da Gianluigi Negri, la festa del cibo d'autore del cinema goloso. Questa sera alle 20:45, se siete in zona, insomma, non siate pigri, venitemi a trovare, perché sarò lì a raccontare un po' la storia di due personaggi straordinari della nostra televisione e anche del nostro cinema. Hanno lavorato anche con Fellini, i gemelli Ruggeri, li ricorderete, Luciano Manzalini ed Eraldo Turra, che verranno premiati da Marco Melluso e Diego Schiavo, altri due registi abbastanza particolari della scena bolognese, e che a loro volta premieranno Stefano Disegni, che in coppia con Caviglia ha raccontato anche sulle tante cose ha fatto, ma sulle ultime pagine di Chuck, lo ricorderete, per tanti anni disegnare a vignette i film in maniera abbastanza sarcastica. Insomma, 20:45, Terme Berzieri, straordinaria cornice per questa serata a Salso Maggiore di Mangia Cinema. Ma entriamo nel vivo delle proposte cinematografiche di questa settimana, cominciando con un film per famiglie. Onward è uscito forse troppo presto, il 19 agosto, e ha fatto un po' fatica, e se ha fatto fatica Onward, che è Disney, insomma, possiamo immaginare che non sia un momento facile. Però ci riprova a portare dentro il pubblico delle famiglie, delle mamme, dei bambini e dei papà, Chris Butler con Mr. Link. Noi abbiamo mandato in avanscoperta la nostra Chiara Pizzimenti. Vi offro uno sguardo su una creatura leggendaria persa nel tempo. Né scimmia né uomo, ma è un gigante. Ha avuto molti nomi. Susan, sarà quello il mio nome? Questo è un nome da ragazza. Sì, è corretto. Ti si addice. Esploratore e cacciatore, nel senso buono, di animali mitologici, Sir Lionel Frost non è accettato dal club degli avventurieri, di cui vorrebbe far parte a ogni costo. Per dimostrare che le sue tesi sono solide, si mette alla ricerca di un animale che rappresenti l'anello di congiunzione fra i primati e l'uomo. Lo trova in America e lo chiama Mr. Link, il collegamento appunto, anche se lui è capace di parole e sentimenti e ha scelto, come avete già sentito, il nome Susan. C'è però chi vuole che Sir Lionel non abbia successo. Mi pare che io sia in svantaggio. Ed è così che preferisco. Willard Stank. È un piacere. Ah, Stank, sì, so tutto del tuo lavoro. Hai inseguito, catturato e massacrato ogni tipo di creatura rara da qui al Borneo. In questo modo mi fai arrossire. Ma secondo i miei calcoli ce n'è una che ti è sfuggita per 30 anni o più. Oh, e sarebbe? Il Sasquatch. Pare te l'abbia fatta, signor Stank. Il Sasquatch? Ah! Se pensi di poter fare di meglio, Frost, sei fuori di testa. Mi hai sentito? posso da legare. Unico della sua specie, Mr. Link vuole riunirsi ai parenti, gli Yeti, e Sir Lionel lo accompagnerà nell'avventura insieme ad Adelina, che possiede l'unica mappa per raggiungerli. Ma devi capire che il mio obiettivo era trovare una prova di te. Il mio buon nome dipende da questo. Prova? Che tipo di prova? Della tua esistenza, per dimostrare agli scettici che si sbagliano, come un campione di peli, un dente, un'unghia, delle feci. Beh, ho tutte queste cose. Mi sembra un buon affare. In tal caso, perché no? D'accordo, ti farò arrivare fin lì, al luogo a cui appartieni. E in cambio, tu mi farai arrivare al mio. Oh sì, potrò dimostrare l'esistenza non solo di uno, ma di un intero ramo rivoluzionario di anelli mancanti. È un'amicizia fra diversi, quella che racconta il film della Laika, ovviamente in stop motion, ormai vecchio di un anno e vincitore del Golden Globe. È l'amicizia fra uno Yeti di pianura che sa l'inglese e prende tutto alla lettera e un Lord che va alla ricerca dei selvaggi con una punta di razzismo aristocratico. Viene in mente il giro del mondo in 80 giorni, ma con più humor e maggiori sentimenti. Evolversi non è entrare in un club d'élite, ma accogliere chi è diverso da noi. Sono famose le voci originali: Zach Galifianakis, Hugh Jackman, Zoe Saldana, Stephen Fry. Qualcosa in italiano ovviamente si perde, non si perde però l'animazione coinvolgente, che nulla sarebbero le parole senza volti e ambientazioni. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Mr. Link. Noi adesso diamo la linea alla viabilità. Fra poco un grande personaggio della storia dell'arte rivive sul grande schermo con un grande attore protagonista, Vincent Cassel. Stiamo parlando di Gauguin, ne parliamo fra poco. Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è mia compagna. È evidente, sei proprio no. Solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic _ 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma ne... Che la vita già dura poco! Ma no! Come? La rosa purpurea. Sono un bambino. E sono anche un selvaggio. È per questo che ho scelto, pur soffrendo, di percorrere la mia strada. Proseguirò lungo il mio cammino. Ho un obiettivo. Sono un artista. E lo so. Così parlò Paul Gauguin con la voce, con il volto soprattutto in questo nuovo film di Vincent Cassel, il film Gauguin di Edouard Deluc, con il quale apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. Un film di qualche anno fa, esattamente targato 2017, però i soliti percorsi della distribuzione lo hanno reso disponibile sui grandi schermi italiani in questo fine settimana. Siamo all'inizio a Parigi nel 1891, Gauguin si appresta al viaggio che segnerà, almeno nell'immaginario di chi poi ha visto nei secoli a venire e negli anni a venire le sue opere d'arte, segnerà un po' il suo percorso. Il viaggio a Tahiti, Gauguin, sposato con una moglie danese, 5 figli che non riesce a mantenere, decide di abbandonare la barca, la famiglia resta in Europa, lui se ne va in Polinesia, dove arriva senza soldi, con una situazione di salute precaria, ma con un'ispirazione che dentro quel mondo quasi primitivo per certi aspetti e con una bellezza forte, naturale, addirittura selvaggia, a partire da una ragazza del posto, Teura, più giovane di lui, che diventa la sua musa, e insomma tutto questo lo porta a stimolare una vena artistica che sembrava lì lì per essere esaurita. E questo racconta con tempi abbastanza dilatati, con sguardo a volte anche quasi documentario in un certo senso, Edouard Leluc in questo film Gauguin, del quale parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Dicevamo in apertura, una settimana che non ha grandissimi titoli, e su questo ci sarà molto da discutere, sul fatto che dopo le due fiammate di Tenet e After 2, non so come dire, questi titoli siano rimasti un po' soli, non siano arrivati altri blockbuster che invece hanno annunci di ritardo, diciamo così, un po' come i treni regionali una volta alla settimana. Detto questo, però, in questa settimana così fatta, dobbiamo dire che forse Gauguin è uno dei titoli che possono attirare un pubblico, vuoi per la presenza di Vincent Cassel, vuoi per l'importanza e la popolarità comunque del personaggio. Beh sì, è un film stranissimo Gauguin, è sicuramente un film da vedere perché ti porta in un universo che noi abbiamo spesso stereotipato, archetipizzato, proprio per la grande iconicità anche dell'opera di Gauguin. Il problema è proprio questo, secondo me, che in qualche modo ti ritrovi a vedere quello che ti immagini di vedere quando pensi a Gauguin, cioè, a partire dal personaggio di Teura che citavi prima, che viene sì normalizzato, perché ricordiamo che lui arriva a Tahiti e si sposa una tredicenne, insomma, qualcosa che adesso è molto difficile non solo da giustificare ma anche da mettere in scena. È un uomo che va lì e dice sì che la colonizzazione è sbagliata, che prende anche delle posizioni politiche coraggiose, ma poi di fatto colonizza sessualmente, perché ha mille avventure di cui si vanta con i suoi amici occidentali, con i suoi amici francesi. Tutto questo non c'è, cioè è una visione normalizzata di Gauguin, è una visione che racconta l'estro artistico, che racconta anche il momento di straordinaria vitalità che dopo uno dei suoi momenti peggiori, sia a livello economico, sia a livello familiare, sia a livello artistico, diceva in Francia non ho più nulla da dipingere, ritrova in questo miscuglio di emozioni, in questo vulcano, in questo tsunami di sentimenti e anche proprio di sensazioni fisiche, che si tramuta anche in quel immaginario tra virgolette polinesiano che porta la sua arte altrove. Faccio sempre fatica a giudicarli questi film, perché qui ci troviamo un po' nella situazione in cui ci trovavamo con Bohemian Rhapsody, che di per sé è anche una bella storia, un bel film, anche se con tutti i suoi difetti, ma che non raccontava Freddie Mercury. Anche in questo caso Cassel, che è bravissimo, che riesce secondo me a replicare l'istinto di Gauguin, a replicare anche i difetti, alcuni momenti di insieme empatia e nichilismo che lui viveva, però non restituisce la storia reale del personaggio, che invece è una storia fortemente contraddittoria. Forse in tempi di non Covid o di non post lockdown saremmo stati più severi. In questo caso può andare. E allora il film Gauguin con Vincent Cassel nelle sale. Adesso giochiamo insieme, perché è arrivato il primo momento per provare a riconoscere il nostro film misterioso. Venuto fino tra Benito. Cosa ti ha chiesto? Con chi dei due voglio fare l'amore stanotte? Questo no, bastardo. Quanto lo permetto questo? Io no. Qua per tu le due. Hai sentito? Che l'hai detto? E allora la voce è già abbastanza, come dire, riconoscibile, però insomma forse ancora qualcuno potrebbe avere un dubbio. Se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due DVD di questo film, del quale fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Cambiamo film, quello che per me è invece il film della settimana anche in termini di qualità, è una, certo non è un film a chiappa incassi, è una commedia, una dramedy anzi per essere precisi, francese, però insomma di quella raffinata, ben scritta, con gli attori giusti, si intitola Il meglio deve ancora venire. Signor Montesio, avvocato Lansky, ma non manda una raccomandata come sempre? Gliene ho mandate 10, lei non le ha mai ritirate. Lo ammetto, avevo una gran voglia di rivederla. Si accomodi. Mi scusi, signorina. Buongiorno. Mi scusi, sa, non ce l'ha la freccia? Cosa? Non si dice cosa, si dice prego. Cosa? E avete sentito una clip di Il meglio deve ancora venire, nella quale i due protagonisti un po' si presentano, perché è la storia di due amici, sessantenni più o meno, Arthur e César, amici da quando andavano insieme in un collegio molto molto severo, che entrambi odiavano, ma che hanno poi superato in maniera molto diversa. Tanto Arthur è diventato meticoloso, attento, puntiglioso, è un ricercatore medico, insegna all'università, vuole rispettare tutte le regole, a volte anche quelle che non ci sono. Tanto César invece è una canaglia, insomma, un guascone, sempre a caccia di donne e soprattutto sbattuto, come avete sentito anche dalla chiacchierata con l'avvocato fuori di casa, perché in bancarotta. Insomma, uno è divorziato, l'altro è spiantato, si ritrovano perché per un equivoco, che non stiamo a raccontarvi per non spoilerare, subito all'inizio uno dei due ritiene di essere malato, di avere una condizione medica molto molto grave, ma tutto questo darà la stura a una commedia e a una dramedy degli equivoci piuttosto divertente, con una grande capacità, che è quella di ridere pur mantenendo un'amarezza di fondo che arriva fino a un finale molto interessante. Boris, Il meglio deve ancora venire è un film che mi fa pensare a qualche film recente che abbiamo anche già visto anche nel cinema italiano. Molte di queste tematiche, il tema dell'amico che ha forse il tempo segnato, pensiamo nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo di quest'estate, Odio l'estate, c'era un personaggio, quello di Aldo, che andava in questa direzione. Per quello che abbiamo visto anche nel film di Verdone, si racconta pur in maniera come dire diversa questa storia. Ecco, è un po' un tema che però, ancora una volta, visto in mano agli sceneggiatori francesi, mi è sembrato trattato meglio. Ma sì, funziona spesso e inevitabilmente si costruisce ancora meglio in mano a una coppia di narratori che non a caso hanno vissuto l'esperienza di avere ben due remake di film italiani nei precedenti film, perché hanno una capacità di essere allo stesso tempo molto francesi ma anche molto europei e di essere vicini anche alla nostra sensibilità. E detto questo, Nel meglio deve ancora venire, e su questo hai ragione, c'è qualcosina in più, senza mai cercare l'originalità a tutti i costi. Da una parte il bromance, cioè il film su un rapporto di amicizia maschile, su un rapporto di amicizia virile e anche su tutte quante quegli equivoci che si possono costruire sul rapporto di amicizia civile, in cui a un certo momento vengono scambiati per una coppia gay, e non potrebbe essere altrimenti, perché quel tipo di amicizia è un'amicizia così stretta e si ritrovano a voler esaudire i desideri l'uno dell'altro, e non saprei come chiamarlo se non amore, che è l'approdo naturale. Non c'è nulla di caricaturale, non c'è nulla di macchiettistico in quella situazione, ed è questo è il grande pregio del film, che in una situazione abbastanza incredibile, perché l'equivoco che si crea non è così frequente, si riesce ad entrare nella storia, non dico immedesimandosi, ma sicuramente sentendola possibile, sentendola probabile, e il resto lo fanno Fabrice Luchini e Patrick Bruel, che non sono due grandi attori da soli, ma che trovano un'alchimia straordinaria, direi anche fisica, anche proprio di grande capacità di essere l'uno per l'altro qualcosa di più di un amico. Il film va alla grande nella prima parte. Quando arriva il momento del dolore, dell'assalto di qualità, almeno per quanto riguarda Montelutistico, l'effetto è buono ma non eccezionale come la parte comica, e non a caso, probabilmente con grande consapevolezza, gli autori che fanno tornano un attimo indietro e si mettono soprattutto a dare verba, a dare benzina alla parte più divertente, alla parte più di intrattenimento. La verità è che probabilmente però Nel meglio deve ancora venire, proprio perché c'è un tema di speranza. Non è il dolore il tema, non è la voglia di stare male che vuole essere indagata, ma è tenere il dolore fuori scena, è raccontare come si possa rinascere attraverso l'altro, e quindi forse probabilmente non è neanche un difetto, è una modalità narrativa e di visione. Il film è leggero nel senso di lieve, ma non nel senso di superficiale, e ti fa capire perché un genere consumato, non nel senso buono, come la commedia francese, a volte però riesce ancora a tirar fuori ottimi film, perché quando è in mano a due bravi autori, quando è in mano a due bravi attori e quando riesce a raccontare con questa freschezza, ha una marcia in più, non c'è niente da fare. A livello europeo non ci sono altri che riescano a raccontare i sentimenti in maniera così divertente, ma anche al contrario. Il meglio deve ancora venire, quindi, con un grande Fabrice Luchini insieme a Patrick Bruel. Boris, rimani con noi, perché fra poco, dopo la pubblicità, sentiremo Susanna Nicchiarelli per parlare di Miss Marx, ma poi torniamo un attimo da te perché c'è un horror che arriva anche nei nostri cinema che si intitola Jack in the Box. Fra poco. Essere, non essere, qui sta il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, per l'idea dell'ave! Non sarà mai che i miei figli, io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua, in cerca d'un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. La rosa purpurea. Se quello che dico non fosse vero, allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso. Eleanor Marx. Ci sono leggende su di lei che resiste a un lungo interrogatorio della polizia. I bambini non devono lavorare. Perché non le dite che ci serve lo stipendio dei figli? Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le donne sono vittime della tirannia degli uomini. Così parlava Eleanor, detta Tussi, Marx, la figlia del teorico politico e filosofo tedesco che ha rivoluzionato con le sue teorie la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, anzi una buona metà del Novecento. A Eleanor Marx è dedicato un film, Miss Marx, un film di firma italiana, quella di Susanna Nicchiarelli, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Susanna! Ciao, bentrovata, bentrovata. Sì. Allora, Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon, per citare i ruoli più evidenti del cast, in un film in costume, che come si suol dire, ormai i film sono in costume anche quando riguardano 20 anni fa, perché i costumi cambiano, però questo è proprio l'impatto, no, del film storico, con un taglio però molto molto moderno. E qui voglio entrare subito un pochino nella prima domanda, che è quella proprio su come hai approcciato questo personaggio. Hai quasi estratto degli elementi di modernità ancora molto forti in questa donna, tanto nel personale prima ancora che nel politico. Beh sì, perché per me l'interesse di questa storia era proprio nella sua modernità. Io credo che la storia di Eleanor Marx, adesso senza arrivare agli estremi che qualcuno ha detto siamo tutte Eleanor Marx, però in qualche modo la storia di Eleanor Marx è molto vicina a noi e all'oggi, secondo me. In generale è molto affascinante lavorare sull'Ottocento, perché è un'epoca che noi sentiamo molto distante e sbagliamo, perché è il momento in cui è tutto cominciato, no? Anche le idee, le cose per cui combattiamo ancora oggi sono cominciate allora. Assolutamente, beh, un'epoca di grandi fermenti, di grandi sì. rivoluzioni, forse delle più grandi rivoluzioni proprio, che hanno ribaltato anche l'ordine sociale. Sì, e poi nel privato, in realtà appunto se leggi le lettere di questi personaggi, le lettere di Marx alle figlie, le lettere delle figlie tra di loro, è impressionante come sembrano scritte oggi, come ti parlano ancora adesso, no? E uno penserebbe invece che allora i rapporti personali fossero diversi, che i rapporti d'amore no, era tutto molto simile adesso, ed è interessante riuscire a raccontare una storia di quell'epoca attualizzandola. Ecco, c'è proprio nell'estetica del tuo cinema in generale, secondo me, ma in questo film in particolare, lo si vede sin dalla locandina, ma lo si sente molto con l'uso delle musiche nel film, la volontà di dirci che questi sono personaggi dell'oggi, che in fondo essere giovani o comunque avere voglia di rivoluzionare il mondo è qualcosa che ha un filo rosso che ci porta da lì a qui, no, in un attimo. Sì, e con tutte le contraddizioni che questo comporta, perché di solito le biografie dei rivoluzionari purtroppo tante volte sono celebrative e quindi superficiali, perché in realtà la storia del rivoluzionario o della donna rivoluzionaria si porta appresso invece tantissime, sempre tantissime contraddizioni. e è quasi innato, no? È il destino al fallimento in qualche modo, che da una parte è anche il fascino della vita dei rivoluzionari. E informate tutti che i bambini non possono lavorare se non hanno completato il terzo corso a scuola. È stata una battaglia, ma l'abbiamo vinta. Ma questo significa che devono avere 10 anni almeno. È assurdo, gli uomini non lo accetteranno. Michael, ti prego. Perché non le dite che ci serve lo stipendio dei figli? Siamo felici se lavorano! Michael, è una cosa inaccettabile. Per favore, calma. Dalla clip che avete sentito, per esempio, c'era un momento pubblico di Eleanor Marx e il tema che si trattava era quello del lavoro minorile e si capiva come le famiglie non fossero pronte, anzi non volevano rinunciare a quello che poteva essere il beneficio del guadagno di un figlio. 150 anni dopo, più o meno, Susanna, siamo ancora a chiacchierare, soprattutto in certe zone del mondo, ma non solo del mondo, anche della nostra Europa, anche della nostra Italia, di lavoro minorile. Beh, è sempre, insomma, il discorso: uno lotta per gli interessi dei lavoratori, delle classi meno abbienti, però al tempo stesso loro a loro volta giustamente, e questa è sempre stata la contraddizione di qualunque battaglia, diciamo, di sinistra, insomma, dalla nascita del socialismo in poi, a volte loro invece rifiutano le lotte dei socialisti perché in qualche modo vedono, hanno bisogno di un guadagno immediato perché hanno bisogno di mangiare, no? E quindi non vedono in prospettiva che la lotta per i diritti invece può un domani, però non c'è la ragione da una parte o dall'altra. Il problema è che la contraddizione insita proprio alla battaglia dei socialisti, insomma, dei socialisti di allora, che poi facevano delle battaglie sacrosante, che hanno, adesso uno poi pensa a Marx e pensa all'Unione Sovietica, ma in realtà non dimentichiamo che nell'Ottocento non era quello il punto. Questa è gente che si è inventata i sindacati, che si è inventata la possibilità, appunto, la giornata di 8 ore. La gente lavorava all'infinito, no? All'inizio della rivoluzione industriale, come succede adesso in tante parti del mondo. E naturalmente questa lotta si porta appresso sempre delle contraddizioni. Assolutamente. Personaggio. Che generano anche spinte emotive diverse, perché di fronte a un uomo che ti dice: se mio figlio non lavora, io non mangio, te che fai? Certo. No, ed Eleanor Marx era una donna molto passionale nelle sue scelte politiche e quindi ovviamente lei soffriva molto di queste cose. Devo dire che nel film si sente molto questa modernità non ideologica del pensiero di Marx, del pensiero socialista. Questa è una cosa molto, molto interessante. E come sei arrivata, Susanna, a Romola Garai come protagonista? Beh, io ho incontrato parecchie attrici inglesi, avevo fatto una serie di ipotesi e insomma ho mandato la sceneggiatura da leggere e poi le ho incontrate e naturalmente avevo visto le loro cose. Devo dire che già lei mi piaceva moltissimo per quello che avevo visto che aveva fatto. Lei ha fatto tantissime cose e una delle più belle, secondo me, è una serie per la BBC tratta da Emma di Jane Austen, dove lei appunto è Emma e regge per 4 ore. È una donna veramente particolare, che ha un magnetismo, una bellezza, un modo di tenere, no, l'attenzione. Io avevo bisogno di quel carisma lì, perché sia perché Eleanor Marx era un personaggio carismatico, sia perché era la mia protagonista. E poi quando l'ho incontrata, lei aveva letto la sceneggiatura e ha detto delle cose molto belle, tra cui una che mi ha colpito, che ha detto: sai come si dice che mentre i film sono scritti da professionisti, la vita reale è scritta da dilettanti. E questo è il bello, no, della storia di Eleanor Marx, nel senso che in qualche modo è una storia che nessuno scriverebbe da zero, perché appunto è piena di contraddizioni, è piena di cose che restano non spiegate, no? Invece di solito quando si fa un film si cerca di dare un po' un senso a tutto, ma la vita vera non ha senso, la gente è matta, fa delle cose che non ti spieghi, no? Come lei, che continua a stare con quest'uomo, si sceglie quest'uomo che le distrugge la vita di fatto. E quindi con Romola abbiamo capito che la sfida era questa, cercare di raccontare questa vita così, così assurda. E allora andiamo a stare insieme al cinema a vedere Miss Marx. Grazie a Susanna Nicchiarelli per questa chiacchierata. Grazie a voi, grazie mille, ciao. Ciao. Susanna Nicchiarelli, regista di Miss Marx. Noi siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Va bene, adesso mi muovi le gambe come quando vai sulla mountain bike. Bravo. Solo solo adesso. Solo solo adesso. Solo... E allora qui c'è la soluzione di fatto alla fine della licenza Io tocco, come diceva Sierano. Si tratta del nostro film misterioso. Dovete scriverci il titolo, dovete scriverci il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it, perché ci sono due DVD che vi aspettano. Fra poco sveliamo l'arcano, anche se di arcano ormai non si tratta più. E allora torniamo da Boris Sollazzo, perché abbiamo un'altra proposta cinematografica in sala in questo fine settimana di cui vogliamo parlare, perché molto spesso è il genere definito il genere estivo per eccellenza. Stiamo parlando dell'horror, ma arriva in questa fine settembre con un film che si intitola Jack in the Box. Cos'è secondo te? È un carry-on? Magari è un pupazzo a molla. No, non c'è la manovella. Questa è una combinazione. Che succede? Io non lo so. È un pupazzo a molla. È un pupazzo a molla, bambole maledette, pagliacci, sembianze, diciamo, quasi da hit per questo film, appunto. Il Jack in the Box di Lawrence Fowler, che arriva nelle sale, film indipendente quasi proprio con il taglio del B-movie, per raccontare una storia appunto che prende le mosse in una cittadina inglese, Hawthorn, nel cui museo un giovane americano prende servizio, conosce una collega e pensa di essere al sicuro fino a quando fra le sue mani non arriva, in mezzo agli oggetti in deposito, non arriva una vecchia scatola che, appunto, aprendola contiene il classico pupazzo, un Jack in the Box, come recita il titolo, che non avrà le migliori intenzioni. Boris, al di là della simpatia, diciamo, per il genere e per questo film, questo personaggio, questo pupazzo a molla, ci dice qualcosa di più in termini di horror? O insomma, possiamo accontentarci o alla fine non fa neanche spavento? Ma se rispondessi di sì, è proprio la grande simpatia per il genere, devo dire. Dice qualcosa in più forse per degli aspetti puramente materiali, nel senso che rispetto a tante bambole maledette, a tanto artigianato violento, diciamo, se vogliamo fare una battuta, qui c'è una cura nella costruzione del mostro, della scatola, della confezione esterna del demone, che non è banale sicuramente, e non lo è nemmeno tutto ciò che si gioca sull'aspetto più d'azione, tra virgolette, cioè sulla messa in scena di alcuni momenti che sono pochi ma che sono buone intuizioni e ben realizzate. Ecco, qua dice non tanto qualcosa di più, ma lo dice bene per quanto riguarda la grammatica e il genere cinematografico. Se poi andiamo a vedere la carta d'identità del regista, che è un trentenne, possiamo tranquillamente dire che probabilmente di questo autore riusciremo a vedere qualcosa di meglio e qualcosa di più, perché sembra avere mestiere, sembra perché poi appunto si nasconde anche un po' dietro il budget basso e dietro il genere che aiuta le soluzioni facili sia narrative che materiali, appunto sembra avere un talento, un occhio particolare. Il problema è che il film va troppo sul sicuro, il film racconta qualcosa che abbiamo già visto, lo racconta anche nella realizzazione fisica con un'iconografia che ci rimanda ad altri film più importanti, lo fa senza guizzi, cioè senza cercare, nemmeno nel finale, che è telefonato ma non troppo, anche in questo è più da manuale di cinema, sembra quasi il saggio di uno studente di fine anno, di uno studente bravo, per carità, uno studente che va promosso, ma che non ha niente di straordinario, niente di veramente personale, e così finisci per, soprattutto lo spettatore più navigato, finisci per spaventarti poco, per entusiasmarti poco, se nel caso tu abbia la voglia di trovare qualche soluzione migliore, di guardare a qualche salto di qualità, e ne esce un film molto medio, al limite della mediocrità, in alcuni momenti, soprattutto nei momenti di stanca, perché poi è vero che questi film sono brevi e che il genere è spesso agile, ma quando comincia a diventare trasparente anche qui la noia si fa largo, anche perché si poteva essere, diciamo, in qualcosa di più tridimensionale e diventa invece qualcosa di estremamente bidimensionale senza nessun approfondimento psicologico dei personaggi, se non, e questa è forse l'unica intuizione, il rapporto stretto che c'è tra il protagonista e il Jack in the Box della situazione. Quello è il momento in cui il film poteva diventare altro, lo è per pochissimi minuti, e lì dentro c'è tutta l'occasione persa di un film che appunto è di un'aurea mediocrità, diciamo un buon 5.5. Un buon 5.5, insomma, è meglio di un buon 4, diciamo così, però tutto sommato non convince fino in fondo questo Jack in the Box. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, siamo in chiusura di blocco, linea alla viabilità, fra poco torniamo perché abbiamo ancora da parlare di un festival che, come dire, nonostante tutti i problemi di quest'anno, vuole segnare la sua presenza. Salina Doc Fest, sarà con noi Giovanna Taviani fra poco. Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta. La rosa purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, ancora cinema questa volta da consumare nei festival che coraggiosamente, nonostante tutti i problemi di quest'anno, cercano i loro spazi, cercano di riaffermare la propria identità, e se c'è un festival che ha fatto dell'identità una sorta di DNA è il Salina Doc Fest, che, come recita il nome, si svolge di solito e si svolgerà anche quest'anno a Salina, nella splendida isola delle Eolie, ma che quest'anno ha voluto sdoppiarsi, cioè fare un pezzettino, un weekend a Roma e un weekend a Salina. Il weekend a Roma è questo in cui vi stiamo parlando, 18-20 settembre, a Salina dal 24 al 26. Con noi al telefono c'è un'amica di questa trasmissione e anche delle passate edizioni di Salina Doc Fest, Giovanna Taviani, che il festival l'ha inventato, lo dirige, insomma ne è il deus ex machina, come si suol dire. Ciao Giovanna, ben ritrovata alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, buonasera a tutti. Allora Giovanna, raccontaci un po' questo sdoppiamento, cosa c'è da vedere a Roma ormai in questa serata e anche nella giornata di domani, domenica, e che cosa ci aspetta a Salina? Sì, praticamente stasera stiamo aspettando per l'omaggio a Mattia Torre, Serena Dandini e Valerio Aprea, che omaggeranno Mattia, che era il più grande giovane sceneggiatore e autore italiano. Niente, abbiamo deciso di rilanciare in questo anno di crisi, di Covid, e di raddoppiare, nel senso che ho trovato questa opportunità, che è una location meravigliosa, l'Orto Botanico, diretto da Fabio Attorre, ai piedi del Gianicolo, nel cuore di Trastevere, dove vi assicuro è poco conosciuta dai romani, e dove praticamente stiamo trasferendo e trasportando l'isola di Salina, che è l'isola verde delle Eolie, nell'isola della capitale, con anche stand che faranno degustare i vini delle Malvasie e delle Lipari. E perché questo? Perché chiaramente, come potete immaginare, arrivare a Salina è difficile, e tutti gli ospiti che avevo già previsto e programmato per già da dicembre, chiaramente ho dovuto dirottarli su Roma. Potrebbe essere anche un'idea, perché comunque quest'anteprima del Salina Doc Fest, dove stiamo facendo il concorso e gli eventi speciali, poi si conclude a Salina con i premi, le proiezioni più importanti, anche anche i vincitori del concorso, e potrebbe essere un'idea. Devo dirti che era il mio vecchio sogno, una sorta di Venezia a Roma. Assolutamente, Salina a Roma potremmo chiamarla. A Salina, tra l'altro, Giovanna, se me lo confermi, ci saranno anche Ficarra e Picone. Assolutamente sì, ho avuto l'ok da Ficarra e Ticone, che tra l'altro mi hanno stupito, io non li conoscevo, li ho voluti a tutti i costi. Quest'anno è da un po' di tempo che il loro cinema si sta, non solo aprendo la commedia, si sta aprendo al sociale, che come sai è il nostro filo conduttore, ma anche la commedia che torna al cinema con la C maiuscola. Pensiamo solo che la fotografia del primo Natale l'ha fatta Daniele Cipri, e io quando li ho sentiti per invitarli, perché è chiaro che a Salina a questo punto, un'isola difficile, a settembre, la riapertura delle scuole, serviva comunque in piazza come evento speciale un film più di richiamo, no? Premesso che farò sempre documentari d'apertura. E quando li ho sentiti, convinta proprio che non avrebbero neanche risposto, mi hanno detto solo una cosa: era da tempo che volevamo venire al Salina Doc Fest, noi siamo cresciuti con Pirandello e il cinema dei Taviani, e quindi questa cosa mi ha molto gratificato. Ovviamente oltre a loro, che verranno a discutere del film, quindi non in veste di comici ma proprio di registi insieme a Emiliano Monreale, ci sarà anche una sezione dedicata alle donne, all'età giovane delle donne, con il film di Madante, le sorelle Macaluso, alla presenza dell'attrice, una delle attrici protagoniste, la De Luca, e Jasmine Trinca, che quest'anno era anche presidente della giuria del concorso che stiamo facendo a Salina e a Roma. E allora, l'appuntamento lo ricordiamo questo weekend, stasera e ancora tutto domani all'Orto Botanico di Roma a Trastevere. Invece il prossimo weekend tutto si trasferisce nella sua sede naturale, nella splendida Salina. Grazie Giovanna Taviani. Grazie a voi, grazie mille Franco, a prestissimo. E allora, questo era il Salina Doc Fest. Noi a questo punto entriamo in zona cinema da vedere in casa, cominciando a riascoltare la clip con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Trovare l'amore non è facile. Così mi sono buttata nel lavoro. Sono diventata psichiatra. E lì ho incontrato lui, Mr. J. Birds of Prey, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, lo hanno indovinato per primi William Crippa di Sulbiate, provincia di Monza Brianza, e Michael Gross di Milano. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Birds of Prey, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, nonostante esista nello stesso mondo di DC Comics di Batman e Superman, l'origine di Harley Quinn non è nelle pagine di un fumetto, ma in una serie animata, la splendida Batman di Bustime e Poldini, dove appare nel 1992. È un cartone animato, assomiglia alla versione live action che si è cucita addosso Margot Robbie. Unica nota positiva del precedente e disastroso Suicide Squad, e qui protagonista assoluta, nonostante anche questo sequel spin-off porti il titolo di un team supereroico. Harley si trova alle calcagni una lunga lista di gente intenzionata a farla fuori. La trama è pretestuosa, le performance esagerate, flashback, flash forward e troppi finali. E c'è un solo modo di godervi questo beverone ipercalorico e iperproteico: deve piacervi il gusto. Blu-ray sfiziosissimo con tantissimi extra, gag ed easter egg. Come sempre anche un paio di segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana, cominciando da domenica nella notte alle 2.30 su Rai 3 c'è un film del 39, ma un film assolutamente da rivedere, Love Affair in italiano, Un grande amore, del grande Leo McCarey. Aspetti. Sono preoccupato, molto preoccupato. Doveva aspettarselo, lasciarla sola sul lago di Como, quella povera. No, devo parlare con qualcuno. Sa, veramente non sono adatta per queste cose, io parlo troppo forte, ho cercato di moderarmi, ma... Ha un viso sincero. Lei... Posso fidarmi di lei, vero? Michelle e Terry, eleganti, sofisticati, arguti, si conoscono, flirtano in crociera europea, si baciano a Madeira, ma per trasformarsi da opportunisti charman in esseri umani dovranno, tornati in America, smettere di giocare col destino e scoprire l'amore con le sue pene e sofferenze. E di certo aiuta la comune fede cattolica. Non si arriva alla tragedia, che per Hollywood classica significa incassi zero, ma si passa per un sentiero inesplorato e sublime, l'innesto dada di comicità e melodramma, commedia sofisticata e incubi ortopedici. Fu un successo per l'ex avvocato irlandese Leo McCarey, inventore di Stanlio Olio e La guerra lampo dei fratelli Marx, che nel 39 realizza per la RKO questo film, diffondendo la moda dei pink champagne e lanciando nel primo e più amato di loro tre hit Charles Boyer e Irene Dunn. Il film fa parte della programmazione dedicata ai Mille Occhi, fondamentale festival di Trieste dedicato alla riscoperta del cinema, quest'anno in edizione ibrida tra fuori orario e sala. E l'appuntamento quindi con Un grande amore domenica alle 2.30 di notte su Rai 3. Invece lunedì alle 21.10 in prima serata, orario un po' più comodo, su Rai Movie c'è un capolavoro di Sergio Leone, del western, che è Il buono, il brutto e il cattivo. Stato. Pertanto, secondo le facoltà noi concesse, condanniamo il qui presente Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, detto il porco, alla pena di morte mediante impiccagione. Sì, durante la guerra di secessione le vite del bandito Tuco, del cacciatore di taglie detto il biondo, del sicario Sentenza si incrociano. È il capolavoro dello spaghetti western, ma ormai considerato pietra miliare del genere tuccore. Studiato nelle università, persino quelle statunitensi, come noto il film preferito di Quentin Tarantino, ma anche di Bruce Springsteen. Ennio Morricone, musica da par suo, il cast è pazzesco, la sceneggiatura una meraviglia da incorniciare, con battute scolpite nella pietra, ne cito solo una: ogni pistola ha la sua voce e questa la conosco. Prove di regia di massa per Leone, che ritroveremo in C'era una volta in America, una potenza espressiva mai raggiunta prima dal cinema italiano. Sì, veramente italiano, forse suona strano, ma è così. E l'appuntamento con Il buono, il brutto e il cattivo è quindi lunedì alle 21.10 su Rai Movie. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Ed eccoci giunti quindi alla fine della nostra trasmissione, come sempre chiudiamo con il nostro film misterioso che vi sveliamo, ma come dicevo era stato abbastanza svelato dalla seconda clip. Comunque era Tolo Tolo, il campione di incassi della stagione scorsa di Checco Zalone, prima regia di Checco Zalone. La settimana prossima annunceremo come sempre i vincitori e ci ritroveremo qui alle 18 su Radio 24 a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.